Niente, scusate il ritardo, ma Tano si è perso, no? Ho avuto un po' di difficoltà ad arrivare. No, niente, io dico due cose veloci anche perché, vabbè, innanzitutto siamo molto contenti e felici di aver fatto un passo in più con la Terra Trema, che fondamentalmente ci siamo sempre occupati del territorio vicino a casa nostra, che è nella pianura padana, a 25 km da Milano, tra il Parco Agricolo Sud e il Parco del Ticino, che è il posto dove stiamo noi, un piccolo spazio occupato che è il Folletto 25603. E ci siamo sempre occupati appunto degli agricoltori in quel territorio e di vino. Finalmente siamo riusciti ad andare sul mare, insomma, nel senso avere per noi Tano qua è interessante. Dico questo perché appunto dobbiamo imparare un sacco di cose. Noi, cioè, personalmente sono un uomo di fiume, nel senso comunque vicino alla Abbiategrasso scorre il fiume Ticino e mio padre faceva il pescatore lì. E quindi c'è conosco quel tipo di territorio e di ambiente. Non conosco per nulla che cosa voglia dire fare il pescatore, che cosa è tutto quello che sta intorno a quel tipo di lavoro, a quel tipo di mondo. Intuisco però che è una questione importante ragionare intorno a questi temi. Abbiamo avuto la fortuna, grazie a Laura, che è catanese di origini. che ha incontrato Tano e niente, quindi lui c'è stato a venire a Milano, a venire a Leoncavallo e niente, ce l'abbiamo qua. Poi su ci sono i suoi prodotti, quindi possiamo anche fare un discorso organolettico e di sensi. E adesso niente, ci racconta un po' la sua storia e poi qualunque cosa vogliamo chiedere, cosa viene fuori, vediamo.